si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Le 8:33 minuti, una buona giornata a tutti gli ascoltatori, una buona giornata a te Carlo. E una buona giornata a te Laura e anche a tutti i nostri ascoltatori. Che possono chiamare come sempre all'800-24-00-24 per partecipare oggi al quiz, quindi domani il personaggio della settimana, oggi il quiz. Brava che ricordi il nostro regolamento di tutto il weekend. Oggi il quiz, quindi noi vi leggiamo una notizia con tre possibili finali, voi dovete indovinare qual è il finale esatto e vi portate a casa dei biglietti per la mostra di Erwitt, è giusto? Esattamente, per la mostra fotografica Elliot Erwitt Family al MUDEC di Milano. Due biglietti da utilizzare entro la fine di marzo. E attenzione, fate bene i conti, giusto, perché giusto, la mostra finisce a fine marzo. Però il tempo c'è. Ma c'è, e poi nel caso credo che si sostituiscono. Insomma, ricordo di nuovo 800. Ci metteremo in ginocchio. Esatto. Sostituite i biglietti, gli ascoltatori. In ginocchio da te per citare la canzone di Morandi all'interno di Parasite, che ha vinto anche l'Oscar. È una buona notizia anche questa, direi, no? Assolutamente. Sì, 800 24 00 24 e poi stavi dicendo il numero degli SMS WhatsApp. 349 238 6666 come per tutte le trasmissioni di Radio 24, perché noi siamo per la semplificazione, esatto, a differenza di altri. Semplifichiamo, 349 238 6666 per intervenire via SMS, via WhatsApp nella trasmissione e quindi dirci la vostra. Io voglio dare una buona notizia di poco fa, poi vai. Ne ho anche delle altre, le ho tenute da parte, va bene, però vi do quella di poco fa. Vi ricordo che finalmente è arrivato il volo dell'aeronautica militare sul quale il giovane Nicolò, 17enne, bloccato a Wuhan per non so quanto da tempo, che per due volte ha dovuto rinunciare a tornare a casa perché aveva questa febbriciattola dovuta all'ansia. Bene, l'aeroplano è arrivato, è atterrato e adesso finalmente è tornato in Italia. E poi, vabbè, avrà la sua quarantena, lo Spallanzani e tutto il resto, ma insomma è forse qui, meglio è qui, che da soli. Ed è stato bello, anche detto, sono dispiaciuto per lo studio, perché ricordiamolo era là per uno scambio interculturale, quindi sì. Ma ci tornerà, insomma. Ma secondo me di cinese ne ha imparato comunque, perché certo, bloccato lì da solo. Soprattutto di cinese medico, volevi dire, Anche, beh, fa sempre comodo. L'abbiamo visto atterrare tutto imbozzolato in qualcosa di molto poco tranquillizzante, se vogliamo, ma insomma, sembrava un po' quella roba, sì, stai sereno, però viaggi dentro in un po' Renzi contro Letta sembrava. Vabbè, questa comunque è la buona notizia della giornata, della mattinata, che vi abbiamo trasmesso anche nel nostro GR24. Carlo, invece a te cosa ti è piaciuto nella settimana? A me è piaciuta Ellie Schlein. Il mio risultato mi sembra che dia speranza a tanti e questo mi fa piacere. Così dice Ellie Schlein, astro nascente della politica italiana, classe 85, in un'intervista a Daria Bignardi all'Assedio sul 9. A proposito della propria recente nomina vicepresidente della regione Emilia-Romagna. E poi aggiunge: vorrei far capire, soprattutto ai più giovani, che in politica i giochi non sono già fatti. Che se uno fa politica con rigore, con passione, cercando di raccontare la verità, non rifuggendo la complessità, ma provando a renderla comprensibile, ecco, a volte i risultati arrivano. Spero che tanti si faranno forti di questo risultato e ci accompagneranno in questo percorso collettivo. Ecco soprattutto perché mi spiace che sulla stampa si sia dato risalto quasi unicamente al coming out di Ellie riguardo la sua attuale felice relazione con un'altra donna, perché in realtà lei ha detto altre cose molto importanti. Il suo è stato, come lo chiamo io spesso, come l'ho chiamato nel mio libro, un coming out esistenziale. È come se avesse detto: io sono fatta così, penso queste cose, voglio e sono in grado di occuparmene per la collettività. Se siamo in tanti a pensarla così, si può cambiare, se non il mondo, certamente molte cose. Brava. E poi alla domanda spinosa e precisa: se lei fosse presidente del Consiglio, i decreti sicurezza oggi sarebbero ancora in vigore? Ellie Schlein ha risposto secca e decisa: no. Ecco, no. Poi ovviamente ha argomentato, ma senza negare il proprio no. Non sentivo una risposta così netta e chiara da parte di un politico di qualunque parte da molti decenni in un talk show. In mezzo a tutto ciò, Ellie Schlein ha anche detto di amare una donna e ne sono felice perché è stato un atto importante. Io credo che sbagliano quelli che alzano le spalle e dicono e chi se ne frega, e sono sicuro che abbia preso un brutto abbaglio Altonella Boralevi sulla stampa che sostiene che oggi si è gay o bisessuali perché siamo soli. Come a dire che io sto con Moreno perché non c'era nessuna donna che mi sopportasse o filasse di pezza, e non perché lo amo alla follia, solo perché sono molto solo. Perché in realtà dico che è importante, non si può dire non me ne frega niente, perché fare coming out è ancora oggi un atto politico importante, soprattutto in questo paese dove, ricordiamo, Lorenzo Fontana dichiara che le famiglie arcobalene non esistono, da ministro delle famiglie, dove tantissimi gol della vostra squadra del cuore sono certamente stati segnati da omosessuali, ma nessuno ha il coraggio di dirvelo, dove ci sono decine di buffi ascoltatori che, scrivendomi frocio su WhatsApp, pensano di intimidirmi, e invece io li compatisco, perché è come se io tutte le mattine andassi sotto casa loro, li citofonassi, gli urlassi lecca patate o anche sporco etero. Ecco. Guarda, quella seconda è proprio offensivissima. Io non lo so come potrei sopportare certe cose. Forse con una vacanza illimitata, come fanno là in Belgio. A volte, no, queste discussioni che sono veramente sterili, cioè mescolare le mele con le pere. Cosa c'entra l'amore familiare con le sue posizioni politiche? Cioè, sono due cose che sono due piani che vengono mescolati casualmente, no? Rispondiamo alla domanda: cosa fa lei dei barconi? Tiene. Ma esatto, questo è il tema. Poi oppure, se vogliamo farle un'intervista sulla sua famiglia, le facciamo un'intervista sulla sua famiglia. Ma non... Vero, sì, io ripeto, penso che sia anche un atto politico questo, quindi comprende e fa parte del suo essere una politica. Anzi, se devo essere onesto, mi sembra era da un sacco di anni che non vedevo un politico in televisione che faceva un atto politico. Mm-hmm. Quindi quello mi è piaciuto. Poi sono d'accordo che ridurre quell'intervista dove lei dice veramente delle cose fondamentali solamente al suo coming out è una riduzione inutile, sì, sbagliata. Esatto, una riduzione sbagliata. E invece, appunto, c'è qualcuno nel giro nel mondo, dicevo, che da queste cose si può prendere addirittura ferie illimitate. Succede in un'azienda in Belgio. Cosa ne pensi tu? Ma tu sei un libero professionista, ferie illimitate? No, però mi sembra molto interessante, soprattutto perché l'ho letto con grande attenzione quell'articolo, e c'è scritto ferie illimitate. Ho detto sì, va bene, nel senso che questa casa... No, ferie illimitate retribuite. Oltre i 20 giorni. Quindi è interessante. Di base. Molto interessante. Questa azienda, Yonkers si chiama, permette ai dipendenti di scegliere quanti giorni restare a casa oltre i 20 giorni che hanno di default, diciamo quelli obbligatori che spettano loro per legge. Insomma, tu ti puoi gestire e dire: il mio lavoro lo porto a termine il giorno... e poi vado in vacanza una settimana. Oltre quelle che magari ho già fatto per Natale, per Pasqua, eccetera, eccetera. Cioè, garantisco gli obiettivi, da un certo punto di vista. Sì, tu credo di capirla così. Io adesso mi immagino che sia l'unica maniera. Anche perché sennò vuol dire che non conoscono l'Italia, perché appena vengono in Italia a fare questo, uno dice: perfetto, io sto a casa tutti i 200 giorni, grazie mille comunque. Vengo ogni tanto a farmi vedere il timbro quella volta che è necessario per... Vengo al cocktail di Natale. Non lo so, se voi avete esperienze di lavoro particolari, datori di lavoro illuminati che vi consentono di fare cose che normalmente gli altri dipendenti non possono fare. Certo, questa è una situazione particolare. Chi produce oggetti, per esempio, non può permettersi questo tipo di azione, no? Perché questi sono traduttori, sono interpreti, sono persone che hanno un lavoro un po' particolare, che però hanno queste possibilità grazie al loro datore di lavoro. Quindi, se voi avete esperienze particolari, ci fa molto piacere se vorrete condividerle con noi. O se vorrete condividere anche qualche esperienza di lavoro, per esempio voi siete partiti come filosofi e siete atterrati a fare tondini. Certo. Se invece siete partiti dai tondini e avete finito alla filosofia, a fare filosofi, cioè, ce n'è di più di quelli, secondo me, ultimamente, così, sentendo certi sedicenti filosofi. Perché noi tra poco avremo come ospite un antropologo culturale che viaggiando, alla fine è finito a produrre cioccolato crudo. Si è appassionato e ha cambiato la sua vita in questa direzione. E finalmente capiremo bene cos'è. Io sono molto curioso di questo cioccolato sì, crudo. Sì, perché io credevo che fosse tutto cotto. quindi crudo adesso com'è? Ce lo spiegherà lui. Quindi ecco, non so, tu hai sempre sognato di fare il mestiere che fai? No, io sognavo di fare il tassista. tassista. Ah, bello. Io sognavo di fare il tassista fin da piccolissimo. Tutti gli anni mi regalavano un piccolo volantino e io ci portavo i miei fratelli con quattro seggiole, il mio volantino. I miei fratelli, avendo tanti fratelli, guadagnavo anche un sacco di soldi. Lì ho capito che il tassista era un lavoro straordinario, perché solamente soldi del Monopoli, ovviamente. Ah. Anche perché non li portavo da nessuna parte. Uno entrava e diceva: mi scusi, segua quella macchina. Ma io rimanevo sempre in salotto. Ma adesso non ho nemmeno la patente, quindi direi che è simile, come, è proprio, nel senso, hai capovolto completamente il tuo mondo. Esatto. Sì, dalla guida a essere guidato, portato dai tassisti. Esattamente. No? Esattamente. Io pensavo di fare la ballerina da piccola, come vedi non ho il fisico da ballerina. Non è vero, non dovevo credete. Essere molto più leggera, non molto credete più alla voce. Dopodiché niente, vedi, sono passata attraverso le traduzioni, interpretariato, sono finita a Radio 24, diranno era meglio se stavi di là no. a fare la ballerina. Va bene, abbiamo... Anche perché la ballerina in radio sarebbe stato stupendo. Così dalle 9:30 alle 10, silenzio. Bello. Beh, Peter metteva un po' di musica, giusto. Alessandro là dietro faceva finta di battere le mani, e tutti contenti. Va bene, abbiamo lo spazio per la viabilità e tra poco appunto ci colleghiamo con il nostro antropologo culturale, diventato poi produttore di cioccolato crudo. Aspettiamo le vostre esperienze, a tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insieme per appunto parlare di vite che cambiano, di percorsi che così si aprono all'improvviso e ti trovi a fare magari qualcos'altro. Con noi c'è Daniele Dell'Orco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Antropologo, ricercatore specializzato nel settore alimentare, della conservazione in situ, valorizzazione della biodiversità agricola e selvatica. Insomma, Daniele, lei è partito dall'antropologia culturale, adesso si occupa di cioccolato crudo. Intanto, lei ha, tra l'altro, ha studiato, no, in vari paesi, quindi insomma ha viaggiato tanto. Com'è stato questo suo percorso che l'ha portato a questa vita diversa da quella che immaginava durante gli anni di studio? Ma guardi, molto semplicemente, dall'antropologia culturale sono passato all'etnobotanica, quindi allo studio di quella, soprattutto quella che è l'agrobiodiversità agricola, e dopodiché ho iniziato a lavorare con diversi chef sul modo che utilizzavano per valorizzare questa biodiversità agricola, e nel frattempo tra i vari viaggi ho conosciuto questo cioccolato crudo, che l'ho conosciuto in California. E me ne sono molto appassionato, ho covato l'idea per circa 10 anni, e dopo, grazie a un'intervista fatta a uno chef stellato italiano che è Antonello Colonna, praticamente ho tirato fuori questa cosa, abbiamo condiviso questa idea e lì c'è stata una spinta, cioè, molto forte. Cioè, lei ha letto forte l'intervista allo chef e ha deciso di contattarlo? No, no, com'è andata? Ho effettuato un'intervista, stavo scrivendo un articolo a due mani, una mia collega sul Noma di Copenaghen, sul ruolo che hanno gli chef nel valorizzare l'agrobiodiversità agricola. Io ho scelto di intervistare Antonello Colonna perché mi hanno chiesto di intervistare uno chef del Lazio, di Roma in particolar modo. E da questa intervista abbiamo iniziato a parlare, alla fine ho condiviso quest'idea, ma per caso, è stato per caso. E da lì c'è stata una bella spinta, perché lo chef non conosceva questo cioccolato, mi ha chiesto di assaggiarlo e molto semplicemente ho iniziato a produrlo sui fornelli di casa mia, così, in modo molto spontaneo. Ma allora il cioccolato crudo non è propriamente crudo, cioè che differenza c'è dal cioccolato che normalmente conosciamo? Allora, guardi, il cioccolato che normalmente conosciamo è prodotto con fave di cacao tostate, e solitamente sopra i 100 gradi per, può essere un'ora o più secondo le varie scuole, e poi subisce la ricetta, dopo subisce delle raffinazioni a caldo come il concaggio per esempio, mentre il cioccolato che definiamo in gergo crudo è un cioccolato praticamente che viene prodotto con fave di cacao che vengono lavorate sempre sotto i 45 gradi, quindi non subiscono tostatura e sicuramente non subiscono raffinazioni a caldo. Quindi questo, non viene proprio tostato questo cioccolato, perché ignorante, anche se sono un appassionato, pensavo che il sapore venisse moltissimo dalla tostatura, l'aroma, il gusto del cacao. Allora, guardi, la scuola tradizionale dice questo, ma i fatti smentiscono e dicono che ci sono anche altre possibilità. Diciamo una cosa, si parte da un assunto tanto semplice quanto innovativo. Il cacao è il cibo degli dèi, Teobroma cacao significa proprio il cibo di Dio, degli dèi. Perché? Perché è un cibo che è un super cibo, ha più di 500 nutrienti. Diciamo, questa lavorazione porta due conseguenze importanti. Una dal punto di vista di qualità organolettiche sicuramente inedite, molto più vicino all'aroma del cacao allo stato naturale. La seconda conseguenza importante è una conseguenza di aiuta meglio a preservare questi preziosi nutrienti del cacao, soprattutto quelli che sono gli antiossidanti, quindi i polifenoli, diciamo, e quindi ci sono dei valori completamente diversi. E le posso assicurare che il gusto non toglie niente al cioccolato, cioè non ha nulla da invidiare all'altro cioccolato. Anzi, c'è chi dice che sia più delicato, giusto? Che sia, mi scusi? Più delicato. Guardi, dipende dalle varietà. Ma nel senso positivo, non... Sì, guardi, il sapore, dipende non molto dalle varietà, dalla genetica di cacao che si utilizza. Diciamo che proprio per il fatto che noi non andiamo a tostare, ma soprattutto per il fatto che non andiamo a fare delle raffinazioni successive che possono arrotondare il gusto, almeno noi tendiamo a utilizzare delle varietà di cacao di monorigini, nel nostro caso peruviano, che ha una buona percentuale di criollo come genetica, che sono molto delicate e quindi il gusto finale rimane delicato, però ha un suo perché, ha un suo carattere comunque sia. Ma adesso una cosa molto importante da dire. Il procedimento più importante prima della tostatura è la fermentazione delle fave. Se voi assaggiate delle fave di cacao fresche, appena estratte da quello che è il frutto, dalla capposta, voi non riconoscete il sapore del cacao. Le fave devono essere necessariamente fermentate. Il problema è che nell'ultima fase della fermentazione le temperature crescono. Nel nostro caso facciamo una fermentazione, un compromesso. La fermentazione serve a dare quel sapore tipico del cacao che conosciamo qui in Europa. Quindi noi facciamo una fermentazione parziale, diciamo di 3 giorni e mezzo nel nostro caso, e soprattutto negli ultimi momenti della fermentazione queste fave vengono areggiate in continuazione, girate in continuazione, proprio per tenere le temperature basse. Ho capito, ma non viaggia più adesso come antropologo, diciamo, oppure cerca di portare avanti le due cose? Ma guardi, l'antropologia è un prefisso a tutta la vita, all'intersezione di tutta la vita, diciamo, quindi quando si viaggia c'è sempre un po' quell'approccio. Diciamo che viaggio più per l'azienda, però diciamo che dentro a questa azienda, dentro a questo progetto, più bello chiamarlo così, ci mettiamo dentro anche tutto quello che è l'approccio antropologico, quindi sicuramente quello che è il rispetto per le comunità locali. Noi lavoriamo con diverse comunità indigene che coltivano con il sistema del chakra. Per esempio queste comunità in Amazzonia non disboscano l'Amazzonia e piantano e sostituiscono con le piantagioni di cacao, ma piuttosto mettono in simbiosi la piantagione di cacao con l'Amazzonia. Quindi puliscono la foresta un minimo per piantare questi alberi di cacao sotto la foresta originaria. Mm-hmm. È molto bello questo. Quindi lì c'è sempre il rispetto per le popolazioni indigene, e anche aiutarle a... Quindi lei l'ha travasata un po' nell'esperienza lavorativa e che sta facendo adesso, quelle conoscenze di prima, sì. E poi le tiene su... Ma è un tipo di produzione, sì. Se vogliamo, antropologica, nel senso è questo del cacao crudo è un modo in cui i nostri antenati mangiavano il cacao, o in realtà è un'invenzione della modernità il cacao crudo? Allora, guardi, diciamo una cosa, gli aztechi, tutte queste persone chiamano, probabilmente quello che ci dicono i cenni storici, le ricerche ci dicono che mangiavano del cacao che veniva poco fermentato, lo mangiavano così, sicuramente, cioè quel cacao che chiamavano cacao lavato, sicuramente non mangiavano il cioccolato è un'invenzione europea. quindi anche il cioccolato tra virgolette crudo, che continuiamo a chiamarlo così per necessità, è sempre un'invenzione occidentale, diciamo. Ah, perfetto. Però diciamo che è molto in linea con quello che sta succedendo con i nuovi approcci sul cibo. Cioè, diciamo che l'obiettivo primario è quello di proporre dei cibi che siano interessanti dal punto di vista organolettico, quindi buono, ma che allo stesso tempo abbiano un valore nutrizionale funzionale alla nostra salute. Quindi secondo me questo è il nuovo approccio: produrre dei cibi che siano buoni ma che diano sempre appunto un grande piacere. Certo. Quindi, le faccio un'ultima domanda rapidissima, mi scusi perché siamo in chiusura. Certo. Se costa di più il cioccolato crudo e dove lo possiamo trovare? Ah, guardi, è molto diffuso in tutto quello che è il mondo del bio, ma anche nel mondo gourmet e anche nel mondo farmaceutico, perché è un cioccolato che sta in tutti i settori. E costa di più, dipende da come si fa e da chi lo fa, dipende da quello che si usa. Sicuramente costa un po' di più perché ha delle lavorazioni più lunghe. Una tostatura può durare massimo un'ora e mezzo, due ore, diciamo. Invece essiccare le fave lentamente a 42 certo, gradi ci vuole molto più 3, tempo. 4, 5 giorni. Certo, è una lavorazione lenta, come tutte le cose prende più tempo, quindi potrebbe costare un po' di più. Ecco, però ci vale tutto. Giusto. Bene, bene. Allora, Daniele, che dire, buon proseguimento, no? Buon proseguimento, buon lavoro. Grazie anche per averci così sfatato il mito che il cioccolato fosse già, no, nell'antica tradizione sudamericana. Invece abbiamo scoperto che è tutta farina del nostro sacco. A Torino c'è una cioccolateria dedicata al crudo, ci scrive un ascoltatore. Ci sono tanti poi che intervengono sulla questione delle aziende che danno così ferie illimitate. Beh, torneremo magari a leggere questo messaggio o a collegarci con l'ascoltatore, se è d'accordo, in particolare quello di Firenze, per sapere un po' come funziona da loro. Daniele Dell'Orco, ricordo, Cacao Crudo SRL, adesso c'è GR24 e torniamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Alle 9:08 torniamo insieme, Carlo. Come va? Eccomi qua, Laura. Come va? Benissimo. Tutto bene, tutto bene. Bene, ringraziamo anche Tiziana che ci scrive, ci augura buon lavoro. Ci sono tanti che hanno molti commenti da fare, ci torneremo senz'altro. Se magari l'ascoltatore da Firenze vuole così essere raggiunto per raccontare della sua esperienza di lavoro a ferie illimitate, beh, saremo molto contenti molto di poterlo ospitare. E di mandare il nostro curriculum alla sua stessa azienda, ovviamente. Ovviamente, a noi non dispiacerebbe minimamente. Diamo intanto il benvenuto a Damiano Rizzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Damiano Rizzi è psicologo e presidente della Fondazione Sole Terre, che ha curato il dossier Salute e Giustizia Sociale. Perché siamo in collegamento con Damiano Rizzi? Perché oggi è anche la giornata mondiale contro il cancro infantile e l'associazione, la ONG Sole Terre, ha molti progetti in questo senso nel mondo, ma anche in Italia, in particolare a Taranto, no? Quindi diciamo ci concentriamo. Entriamo un po' su questa realtà pugliese. Rizzi, sì, volentieri. Abbiamo scelto questa anche perché forse è più, diciamo, nota la situazione agli ascoltatori, ma immagino che il tipo di sostegno che voi date poi sia tutto sommato simile anche nelle altre realtà. Sì, è proprio così. Occorre avere come punto di riferimento centrale all'interno dei nostri pensieri che il bambino è una persona e che quando si ammala un bambino si ammala un'intera famiglia. E quindi, nel caso di Taranto, scusi, riflettevo questa mattina, si ammala anche poi una società, nel senso che penso ai bambini a scuola che vedono i loro compagni malati, uno, due, quindi è in realtà tutta un ambito che va un po' preso in carico e in cura. È proprio così, e anche appunto quando si parla delle giornate mondiali per qualsiasi tema, oggi stiamo appunto parlando della giornata mondiale contro il cancro infantile, è proprio importante questo, cioè pensare che da una parte c'è la tecnica della cura, nel caso dei tumori infantili le chemioterapie, le radioterapie, tutta la medicina, la ricerca scientifica, ma poi, come dire, c'è un'attenzione all'ambiente nel senso più ampio, quindi nell'ambiente nel senso di inquinamento ambientale, ma anche l'ambiente nel senso di attenzione alla famiglia, attenzione, lei diceva, alla scuola, per cui è fondamentale proprio, come dire, che tutti quanti, per cui siamo chiamati tutti ad avere un'attenzione proprio nei confronti di una malattia che è una malattia ancora rara. Sappiamo oggi che i numeri ci dicono che per fortuna i bambini si ammalano, ma è comunque una malattia rara. Però quando si ammala un bambino, proprio perché è ancora come dire, un individuo che ha molto bisogno di una rete di relazioni per il suo sostegno, tutta questa rete rischia di ammalarsi e quindi occorre davvero un'attenzione a 360 gradi perché solo così si può veramente curare. Faccio un esempio, sì. Ci sono molti bambini e molte famiglie che non dicono che il bambino ha un tumore, quindi immaginate questo bimbo che non può dire ai suoi compagni di classe il perché si è allontanato. La sofferenza emotiva e l'angoscia aumenta incredibilmente, perché non è legittimato a dire sono lontano da voi, amici, compagni di classe, compagni di gioco, perché ho una malattia, perché ho questo tipo di malattia. Quindi ancora esiste oggi, nel 2020, il tabù della malattia. Ma come mai è una questione di tabù? Nel senso, come mai un genitore dice o è una questione di vergogna o è una questione... Provate a pensare anche al ruolo che avete voi giornalisti in questo. Ancora oggi basta sfogliare un giornale e si legge che la mafia è il cancro della società, piuttosto che il bullismo è il cancro della scuola. Verissimo. La parola cancro viene utilizzata ancora come la cosa più schifosa del mondo. Esattamente. Immaginate quando viene comunicato a un bambino e a una famiglia che ha un cancro, cioè che ha un tumore, che ha una leucemia, insomma, chiaramente poi certo. le parole sono, la comunicazione di diagnosi io la faccio in ospedale, ovviamente accompagnando il medico, viene fatta perché il bambino possa capire, perché la famiglia la possa accogliere, viene rifatta più volte, perché venga assunta a livello consapevole, ma quello che rimane è comunque la parola cancro. Certo. Ma al bambino di solito viene detto da... Cioè viene detto al bambino o viene detto solo ai genitori e poi se ne occupano i genitori? No, occorre fare un lavoro per cui venga condiviso anche con il bambino, che viene detto anche al bambino. Questo è il tema, perché i genitori molto spesso credono di proteggere il bambino non dicendo tutto. Ma questo, guardi, è proprio un retaggio di un modo di fare medicina per cui fino a... diciamo a metà degli anni 70 ci si chiedeva ancora se il bambino sente dolore. Come? Cioè, nel senso, siamo basiti, questo silenzio forse non sente dolore, forse tanto anche se lo sente non se lo ricorda, cioè questa era la mentalità, no? Per cui il bambino, come dire, è in anni recenti conquista lo status di persona. Quindi direi che sono stati fatti passi da gigante da questo punto di vista, almeno questo. Considerate che anche la cura del tumore infantile è una conquista di oggi, nel senso che dal punto di vista storico stiamo parlando di un qualcosa che succede anche lì alla fine degli anni 70. Quindi, e la ricerca da questo punto di vista ha fatto progressi, nel senso che se allora su 10 bambini 8 purtroppo non ce la facevano, oggi siamo esattamente al contrario. A parte invertite. Assolutamente, per questo che è proprio tanto importante parlare, cercare di non utilizzare in maniera impropria la parola cancro. E su questo davvero c'è molto da fare. Il continuare a condividere la pratica clinica, la ricerca scientifica, i protocolli terapeutici, e soprattutto noi l'abbiamo visto portando le cure in Africa, anche in contesti dove ci dicevano i pediatri stessi italiani, ma che è andata a fare a curare il tumore infantile in Africa, che si muore di dissenteria. Questo io me lo sono sentito dire più volte. E però, ancora una volta, è quando fai qualcosa in più che la scienza va avanti e che si salvano vite umane. Bisogna fare qualcosa in più e fuori dalle regole. La storia dell'oncologia pediatrica insegna che quando non ci si accontenta dello status, ma si fa qualcosa in più, la scienza va avanti e si salvano vite umane. Occorre veramente avere un po' quel coraggio, non individuale, ma collettivo, dell'avere proprio la consapevolezza che occorre fare qualcosa in più. Ci sembra veramente un messaggio perfetto questo, è veramente un si può fare, nel senso se si va fuori dalle regole si può fare molto meglio. Ci spiace che abbiamo finito il tempo perché volevamo parlare anche delle cose incredibili che fate, il sostegno psicologico in reparto, sostegno economico, rafforzamento del team medico, addirittura vi state occupando di aumentare il numero dei medici e di pagare, se ho capito bene, una borsa di studio ai medici. Purtroppo non abbiamo il tempo adesso di parlarne, ma magari ci sentiamo un'altra volta, che forse è giusto parlare di cancro infantile tranquillamente senza farlo diventare uno stigma anche gli altri giorni, e non solo oggi che è la giornata mondiale contro il cancro infantile, 15 febbraio. E ricordiamo Damiano Rizzi, presidente Fondazione Sole Terre, grazie, abbiamo la viabilità. Si può fare. Signore, le dispiace scendere dall'auto? Sì, sempre, moltissimo. Scenda per favore. No. È circondato! Scenda dall'auto! No! Sali a bordo di Jaguar E-Pace e non vorrai più scendere. Con Easy Jaguar oggi è tua a 19.300 euro. E dopo 2 anni decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. TAN 0%, TAEG 095, salva approvazione della banca fino al 29.2.2020. Info su jaguar.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh my, oh my, oh my god. This girl straight and this girl not. Tipsy off that piece of rock, like. Mi dispiace interrompere il tuo balletto, ma abbiamo un ascoltatore che vuole partecipare al nostro quiz ed è Alessandro, buongiorno, dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno a voi, si può fare? Grazie. Buongiorno. Alessandro, per essere rimasto in linea, l'abbiamo fatta aspettare un poco, ma adesso siamo pronti. Lei è pronto? Sì, penso di sì. Allora, noi leggiamo, no, il testo e 3 possibili risposte, ci deve dire se è giusta la 1, la 2 o la 3. Il tema è questo. Scoperta in Canada una nuova specie di tirannosauro. Il nome scientifico di questa nuova specie sarebbe Thanatopteristhesis de Grotorum. Ma come è stato soprannominato dai paleontologi? Risposta numero 1, mietitore di morte, perché era un predatore letale e infallibile. Risposta numero 2, Tomato Rex, perché nel suo stomaco sono state rinvenute tracce di pomodoro. Risposta numero 3, Genova, perché questa specie aveva le braccia particolarmente corte. Ma penso che sia la seconda, tomato, pomodori, sembra la più... Più credibile, lei dice? Il famoso Tomato Rex, sentiamo un po'... No, ci spiace. Era Alessandro. Il mietitore di morte, perché era un predatore letale e infallibile. E questa è la nuova specie di tirannosauro scoperta in Canada. Ci spiace però non poterle. Però può riconcorrere la prossima settimana. Certo, assolutamente. Può cercare di indovinare il personaggio. Grazie molto. Se cambia Alessandro. Voce può anche, secondo me, tra mezz'ora assolutamente. Non facciamo il controllo incrociato dei numeri. Beh, mi sa che invece il centralino su queste cose è abbastanza preciso. Comunque. Allora, si può sempre concorrere 824 0024. Questo è il numero verde per prenotarsi. Abbiamo in palio i biglietti per la mostra fotografica Elliot Erwitt. Non riusciremo mai a dirlo tutto bene. Family si chiama così la mostra al MUDEC di Milano. Adesso così prendiamo il volo, no? Prendiamo il volo perché parliamo di energie rinnovabili. L'Italia infatti si sta avvicinando. E soprattutto fatte col vento, prendiamo sì, il volo per quello. All'obiettivo emissioni zero entro il 2050 e lo fa grazie anche a una bella crescita dell'energia prodotta da rinnovabili. E in particolare è in crescita la produzione eolica, più 28,2%. Questi almeno sono gli ultimi dati che abbiamo. abbiamo trovato. Sentiamo se ci conferma il tutto il nostro prossimo ospite, che è Davide Astiaso Garcia, segretario generale dell'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. È proprio così, un più 28% abbiamo letto per l'eolico. Allora, l'eolico sì, in Italia diciamo che è una tecnologia ormai che si sta sviluppando da diversi decenni. L'ANEV stessa, l'associazione, esiste ormai da 18 anni, siamo un'associazione di imprenditori industriali con elevata, spiccata e riconosciuta associazione di protezione ambientale. E nulla, diciamo che in questi anni ci sono stati momenti sia di crescita importante che anche di stallo, in cui alcuni provvedimenti normativi anche nell'ultimo decennio hanno messo in difficoltà le imprese del settore, quindi diciamo che l'andamento è stato variabile nel tempo. Oggi abbiamo installati circa 10 gigawatt di potenza da fonte eolica e la notizia più importante è che da pochissimo il nostro governo ha inviato a Bruxelles, alla Commissione europea, la versione definitiva del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il famoso PNIEC, esattamente. Questo nome è terribile, ha fatto bene a scioglierlo. Esattamente, che sono diversi, ormai più di un anno che sono circolate delle bozze, noi siamo stati anche auditi dalle commissioni parlamentari su questo, abbiamo dato delle indicazioni. Bozze di PNIEC. Sì. Scusi, non volevo interromperla. No, assolutamente. Il governo ha anche recepito delle nostre osservazioni basate dagli studi che abbiamo seguito sul potenziale della risorsa vento nel nostro paese, perché è importante capire quali sono le risorse che l'Italia ha a disposizione per produrre energia pulita, ed il vento insieme al sole ovviamente sono quelle che più importanti sia in termini di disponibilità che poi anche in termini di maturità tecnologica. Appunto a questo piano dicevo PNIEC prima, che peraltro è stato un po' criticato, no? Forse non è abbastanza ambizioso, comunque sull'aspetto sì, è stato anche criticato, sicuramente si poteva fare di più. È un piano vincolante a differenza dalla SEN, dalla strategia energetica nazionale che era stata fatta prima, quindi diciamo che è un impegno importante che si è preso il nostro paese. È chiaro che siamo di fronte a un periodo di transizione energetica e quindi ogni sia stato membro in Europa ma anche a livello mondiale, i vari paesi stanno prendendo operando delle soluzioni concrete per fare ciò. Comunque per quello che riguarda l'eolico in particolare, il piano prevede un raddoppio in sostanza della potenza installata da qui al 2030, quindi ci sono le potenzialità per farlo, per combattere questi cambiamenti climatici. È importante però, al nostro avviso, ma vedendo un po' come vanno le cose, che appunto siamo di fronte a una transizione energetica, dobbiamo produrre energia per soddisfare il fabbisogno comune della popolazione. Importante che questo vada fatto con le rinnovabili, che di fatto sono le fonti migliori dal punto di vista di inquinamento, di non emissioni di gas climalteranti o di emissioni di qualunque altro tipo di inquinante. Siamo in un paese in cui viviamo circondati da una bellezza ambientale e paesaggistica che forse non è uguale in Europa e infatti nel mondo. Sono subito arrivati messaggi infatti, su questo tema. Beh, ma eravamo preparati anche noi, perché la cosa che ci chiediamo è diciamo se la famosa opposizione paesaggistica si sia modificata, non sia più un problema, no? Spesse volte si dice deturpano, rovinano oppure fanno male anche al passaggio degli uccelli le pale eoliche. E a che punto siamo da quel punto di vista? Non deturpano più l'ambiente? No, allora tutti qualunque sito industriale ha i suoi impatti nell'ambiente di qualunque natura, quindi è chiaro che l'eolico ha delle situazioni in cui deve prestare particolare attenzione, e le altre tecnologie ne hanno altre. Quindi certo. Partendo dal fatto chiaramente forse meglio pale che ciminiere, possiamo dire. Quello senz'altro, per i problemi che abbiamo adesso, senz'altro. Ciò certo. Non vuol dire che uno debba installare l'eolico senza curarsi dell'ambiente, più del paesaggio e di tutto ciò che possono essere le ricadute nel contesto territoriale. E per fare ciò, appunto, ci sono delle autorizzazioni che prevedono commissioni unificate, conferenze unificate, in cui si valutano per diversi anni, quindi in modo accurato e serio, tutti gli impatti che un singolo impianto in eventuale costruzione potrebbe avere sulla fauna, sulla biodiversità, sul paesaggio, sui paesi vicini e quant'altro, e si fa questo percorso, che è un percorso abbastanza lungo, in cui intervengono le sovrintendenze, intervengono vari enti preposti. Quando questi enti preposti, nel caso in cui danno autorizzazione positiva, perché poi c'è un percorso, in alcuni casi magari è meglio non farlo, in altri sì, quando danno autorizzazione positiva è importante che poi quell'impianto venga realizzato concretamente, senza continuare inutili polemiche o diatribe che spesso fanno più rumore che altro, perché a volte sono minoranze, per cui degli interessi locali o degli interessi economici che non coincidono con quelli del nostro paese, con quelli poi di tutti i paesi moderni che stanno spingendo verso una transizione energetica, vanno a ostacolare la realizzazione. Quindi noi siamo assolutamente sì per le rinnovabili, ma fatte in un modo appropriato. Di fatto abbiamo sottoscritto protocolli con le principali associazioni ambientaliste, in primis Legambiente, WWF, Greenpeace, ma anche l'ISPRA, l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, l'INAIL sulla sicurezza dei lavoratori, per divulgare una corretta diffusione dell'eolico. Quindi questo è importante. Sì, una corretta diffusione che appunto vada anche a impedire, no, che si ripetano certi scandali che ci sono stati. Adesso io vedo dei messaggi, ma è inutile che li legga tutti, il senso lo sappiamo bene, quelle pale che sono state costruite solo per ricevere, no, incentivi, quegli altri su cui allora, sono arrivate le mafie e così via. Ci sono questioni diverse. Certo, allora assolutamente in ogni settore dove girano i soldi è chiaro che ci possono essere degli esempi che possono essere meno positivi. L'eolico però bisogna dire che è una tecnologia, a parte che le rinnovabili ricevono incentivi, questo tutte le rinnovabili, solo quando producono energia. Quindi se io metto una pala eolica messa male, non la collego, e questa pala non gira, io non prendo un euro, ho investito milioni e non prendo un euro se la pala non gira. Questo né già ci sembra da buono. Né da nessuno. E per di più l'eolico è pure più difficile da realizzare rispetto banalmente al fotovoltaico, in cui si fa un calcolo della radiazione solare, inclinazione, si guarda a sud, è più o meno il gioco è fatto. Nell'eolico fare un business model è molto più complesso, quindi servono competenze maggiori che il nostro paese ha e che comunque ostacolano, diciamo, la realizzazione di impianti così fatti dall'oggi al domani. È chiaro che appunto gli esempi, quello che stavo dicendo prima un po' era il fatto che a volte ci sono delle preconcette approcci pregiudizialmente contrari che non si capiscono, soprattutto dalle sovrintendenze. Se uno vede 42 impianti parere negativo dalla sovrintendenza, può essere che in alcuni casi magari era giusto, ma in altri magari no. Esempio quello, il primo eolico a mare a Taranto, che è stato fatto di fronte, non è stato ancora fatto, ma è stato autorizzato di fronte all'enorme impianto siderurgico dell'Ilva, quello fu bocciato dalla sovrintendenza alcuni anni fa perché si sosteneva avrebbe modificato il paesaggio. Quindi in alcuni casi uno dice, si può porre il problema di capire perché, di fatto poi si va alla presidenza del Consiglio dei Ministri e si vede che poi si ottengono in alcuni casi le autorizzazioni. Quindi c'è un po' a volte una divergenza tra quello che il nostro governo ha proposto, non l'ANEV, i numeri del raddoppiamento della potenza non sono numeri dati dall'associazione, ma sono numeri dati dal governo, giustamente seguendo le direttive europee, e poi invece quello che concretamente a volte sono gli ostacoli sul territorio, che sono a volte appunto, sembra che ci siano altri interessi che non coincidono, come dicevo prima. Quindi va bene l'eolico, ma va bene fatto in un certo modo, quindi assolutamente l'autorizzazione deve essere un percorso preciso, fatto con studi ad hoc sulla avifauna, sul paesaggio, su tutte quelle che possono essere gli impatti o i potenziali impatti sul territorio. Poi se si può fare e va bene quel particolare impianto, si autorizza, altrimenti non si autorizza. Ma quelli autorizzati poi devono essere. Bisogna realizzati. Anche poi avere una certezza anche dalla parte dell'imprenditore, cioè si fa, non si fa, sì, no. Esatto, perché altrimenti si va avanti per anni. O cambiamenti, perché questo allontana anche gli investitori, chiaramente. Benissimo, quindi, regole chiare, noi chiediamo regole chiare, chiediamo la tutela del paesaggio, assolutamente, anche perché appunto viviamo in un contesto in cui nel nostro paese, proprio per la bellezza del nostro paesaggio, abbiamo delle regole particolarmente stringenti, quindi abbiamo delle sfide maggiori, ma che però possiamo affrontare, ecco, esatto, pensando. Che possiamo affrontare. Grazie, segretario generale ANEV Davide Astiaso Garcia, per essere stato con noi. Buon lavoro e alla prossima occasione. Una piccola pausa e poi parliamo di comunità energetiche. si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Look at me, I'm a drinking bomb. I ain't giving up, I'm getting strong. But it's hard to live with a heart of stone. Adesso dalle pale eoliche andremo a parlare tra pochissimo di comunità energetiche. Sto cercando di leggere un messaggio ma non ci arrivo perché ho il computer troppo distante e il braccino corto come il tirannosauro di prima. L'ultimo messaggio è stato eliminato perché io gli stavo rispondendo. No, perché era qualcuno che diceva: allora ci vediamo alle 11 e un quarto in piazza Cavour. E io gli stavo dicendo: guarda che forse ha sbagliato il numero, glielo dico per lei. Perché sai quelle cose che poi vai lì alle 11 e un quarto, non c'è nessuno, e dici: come mai non c'è nessuno? Beh, se hai convocato Radio 24, diciamo, è più difficile. Attenzione a dove mandate i messaggi, è sempre in agguato il pericolo. Dicevo, tra pochissimo parliamo di comunità energetiche, ma abbiamo in collegamento un'altra concorrente per il quiz, che è Maria dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Maria, lei aveva indovinato quella del tirannosauro? Prima. Allora vediamo se ce la fa con questa. Non possiamo darle il premio così sulla fiducia, dicendo io l'avrei indovinata, sarebbe troppo facile. Allora, va bene, però chi ben comincia a metà dell'opera. È nato a Perugia un ambulatorio molto particolare che è stato presentato alla comunità in occasione della giornata del malato. Che cos'ha di speciale? Risposta numero uno: è un ambulatorio riservato ai pazienti con malattie imbarazzanti. Risposta numero 2: è un ambulatorio totalmente gratuito per i poveri e le famiglie indigenti. Risposta numero 3: è un ambulatorio trans speciale dove si cureranno sia pazienti umani che animali. Oddio. Quindi è il nuovo ambulatorio, è per malattie imbarazzanti, totalmente gratuito per poveri e famiglie indigenti, oppure sia per uomini che per animali? Proviamo, sia per uomini che per animali. Non ci siamo, ma diciamo per fortuna in realtà è un ambulatorio gratuito per chi non ha risorse, per chi è povero. Presentato questo progetto, il cardinale Bassetti ha detto: nessuno sia costretto a scegliere se mangiare o curarsi. E ci sembrava una buona notizia, ci spiace invece non è una buona notizia che non abbia vinto i due biglietti per però la mostra di Agüita, ma può richiamare quando vuole. Esatto, grazie Maria. Dicevo, parliamo adesso di comunità energetiche in Italia. Sono stati individuati 5 progetti pilota selezionati sul territorio nazionale. Che cos'è questa comunità energetica e che cosa può significare questa così esplorazione che verrà fatta sui progetti pilota? Ce lo dirà Walter Righini, che è presidente di FIPER, Federazione Italiana Produttori di Energia Rinnovabile. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, 3 di questi progetti selezionati sono tra l'altro soci di FIPER. Uno so che la riguarda particolarmente da vicino. Esatto. Esattamente. Però intanto cominciamo col dire cosa sono queste comunità energetiche. Lei ieri mi ha detto: mi sa che non è chiarissimo neanche al legislatore su certi aspetti. E quindi chiariamolo almeno all'ascoltatore. Beh, diciamo che è tutto un settore completamente nuovo, tutto da scoprire, tutto da inventare. Dovrebbe trattarsi di un nuovo modello di produzione, gestione e consumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo progetto è promosso dalla direttiva europea detta RED2 e per la prima volta sancisce che diversi soggetti, utenti e consumatori possono unirsi in queste comunità avendo il beneficio di produrre e consumare contemporaneamente l'energia che viene prodotta. La devono consumare loro o la possono anche vendere? Beh, nell'ambito di questa comunità può essere utilizzata per vari scopi. Ci sono i cosiddetti prosumer, cioè produttori e contemporaneamente, cioè io la produco magari in un certo momento e la consumo in un altro momento, creando effettivamente un beneficio per certi ambiti territoriali. Chiarissimo, perché io magari la produco oggi perché posso produrla oggi e la usa qualcun altro che ce l'ha bisogno oggi, io ce l'ho bisogno un altro giorno e la uso quando la produce un altro. Oppure io la produco di quando c'è il sole, esatto, quando c'è il vento, e la, poi la consumo di notte. Chiaramente tutto un nuovo sistema di gestire, di utilizzare. Fino a poco tempo fa si diceva bisogna far usare le lavatrici di notte perché il prezzo di energia è molto basso, è più basso e la vergine, però di notte magari io non riesco a produrre l'energia col fotovoltaico. Certo. Per cui diventa tutto un nuovo sistema di attivarsi. Quindi si fanno le lavatrici solo d'estate quando c'è molto sole? Perfetto. Sto scherzando, ovviamente. È la climatizzazione d'inverno quando fa freddo. Ma come si costituisce questa comunità? Cioè, cos'è, un paese? Un insieme di paesi? Ecco, anche qui, tutto, proprio l'altro ieri, la commissione, la quinta e la prima commissione al Senato hanno approvato una modifica al milleproroghe parlando appunto dell'autoconsumo. Lì però parlano soprattutto di condomini con una potenza fino a 200 kW, cioè il condominio che sul tetto mette i pannelli del fotovoltaico diventa un autoproduttore e un autoconsumatore dell'energia che produce. Nel nostro caso invece, i tre esempi di cui si parlava prima, qui come comunità di energia si parla di comuni, per esempio il comune di Premiero, un comune che ha circa 8.000 abitanti, il comune di Tirano ne ha circa 9.000 e quello della SEF Prato Lo Stelvio sono 3.500-3.600 abitanti. E chiaramente in questi settori dovrebbero essere coinvolti un po' tutti gli abitanti del territorio. Ma mi scusi, per capire, dovrebbero, nel senso che la comunità energetica come si crea, come si fonda? Nel senso che uno per alzata di mano dice voglio partecipare anch'io, oppure dico, tutti quelli di un paese? Prego. Dovrebbero, perché come dicevo prima è ancora tutto da inventare, da costruire. RSI ha fatto questa manifestazione di interesse per estrapolare 5-6 comuni, per verificare tutte le problematiche che una comunità di energia può creare e tutti i vantaggi che possono derivare da una comunità dell'energia, perché chiaramente vuol dire staccarsi dalla rete, dal 100% della rete nazionale, e cominciare a vivere un po' con le proprie forze. Chiaramente in certi momenti uno però dovrà magari aver bisogno comunque di essere allacciato alla rete nazionale. Per cui è tutto da capire quali problematiche nasceranno da questa comunità dell'energia e quali vantaggi questa comunità dell'energia potrà portare al territorio. A mio avviso sicuramente le zone più periferiche, le zone di montagna, magari io per esempio le sto parlando a Valtellina, sapete benissimo che in Valtellina c'è molta produzione idroelettrica, come succede anche in Val d'Aosta. Certo. Tutta questa produzione elettrica viene consumata soprattutto nel centro Lombardia, Milano, con tutto il trasferimento dell'energia che comunque comporta delle perdite di rete, eccetera. Ah, voi dite l'energia che produciamo qui da noi in Valtellina poi in realtà viene usata a Milano, invece se noi la usassimo noi chiaramente la mandiamo sempre a Milano. Certo. Non è che lasciamo i milanesi senza energia elettrica. Eravamo preoccupati, però, perché adesso qua facciamo partire il generatore di Radio 24 che sennò cade la... Cominciamo a pedalare noi. Tenete presente che qui magari in Valtellina arrivano le reti del metano con chilometri e chilometri di reti e con una scarsa utenza sul metano, allora forse sarebbe meglio sviluppare più il metano nelle zone di grossa concentrazione e il metano che arriva qui sostituirlo con l'energia. Proprio ieri abbiamo fatto una dimostrazione qui a Tirano per invogliare la gente a usare le piastre a induzione elettrica. Perché certo, avendo disponibilità di energia elettrica, dice, usiamo questa. Esatto, cioè, usiamo questa che la produciamo noi, che la produciamo in loco, che non ci sono sprechi. Spostare per chilometri e chilometri, venire da Milano in Valtellina, sono 200 chilometri di rete del metano per poi fornirlo a 150.000 abitanti che un quartiere di Milano. Ma le faccio una... è chiarissimo, le faccio solamente una domanda, ma il punto d'arrivo di questo è che poi la rete del metano venga dismessa, cioè che voi dite noi usiamo solo l'elettricità di modo che finalmente possiamo dismettere queste tubature? Beh, diciamo che da Tirano in su, per esempio, in Valtellina il metano non c'è ancora, si usano ancora le bombole, giusto, certo. Per cui che non è il massimo della sicurezza avere una o due bombole in casa, per cui abbiamo detto, oltretutto l'energia elettrica, a caso strano, costa di più in Valtellina che a Milano. E come mai? Ah, beh, questo... Ne parliamo un'altra volta. Bisogna chiedere a qualcun altro. Senta, ma intanto c'è da dire una cosa. Siccome ci sta dicendo è tutto da inventare, abbiamo bisogno di chiedere il permesso se possiamo chiamarla tipo ogni due mesi per capire a che punto siamo di questa invenzione, perché noi siamo molto interessati a queste comuni. Guardi, le do... Noi per esempio a marzo, il 20 marzo, abbiamo un convegno a Bolzano in occasione dell'assemblea della FIPER, dove abbiamo degli esperti che parleranno proprio delle comunità dell'energia, delle comunità dell'energia legate anche all'idrogeno, e se qualcuno fosse interessato a partecipare o ascoltare, anzi ci sarà anche il vostro... Mi pare che Carlo stia indicando me, ecco, c'è Maurizio Melis, abbiamo già il delegato. Perfetto, benissimo. Io vengo a mangiare i knödel, se non ho sbagliato zona. Infatti al menù ci sono proprio anche quelli. Perfetto. Grazie molte. Seguiremo senz'altro i lavori della FIPER. Walter Righini è il presidente. Abbiamo la viabilità. Alla prossima. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco la nostra selezione di buone notizie della settimana. Comincio dalla quinta posizione, per la quale andiamo in provincia di Salerno, dove un sindaco fa il babysitter per amore. Iniziativa del sindaco Giuseppe Lanzara per San Valentino. Lui è sindaco di Ponte Cagnano, come dicevo, provincia di Salerno, e ha per il secondo anno consecutivo confermato questa iniziativa. Si è prestato a fare da babysitter in occasione di San Valentino per le coppie del paese che hanno figli piccoli e non hanno mai un momento libero, e quindi lui si è tenuto i bambini per la serata più romantica dell'anno e per consentire ai genitori di andare a cena fuori. Beh, io vorrei sapere com'è andata. Io direi che dobbiamo assolutamente sentirlo. Oggi è il 15, lo lasciamo riposare. Domani magari, se ha voglia. Concordo. E chiamerei anche un po' i bambini per sapere com'è, se è bravo, com'è non il è bravo. Sindaco. Hai ragione. Forse è meglio sentire i bambini. Perché potrebbe essere anche un sistema straordinario per prepararsi per delle elezioni. Perché comunque anche i bambini fra 15 anni saranno elettori. Quindi è stupendo. Ma non so se di questo sindaco, ma comunque vabbè. Al quarto posto un'italiana, Cristina Pozzi, 38 anni, esperta di intelligenza artificiale e robotica, è stata nominata European Young Leader per il 2020 insieme ad altre 40 giovani personalità del continente che si sono distinte in vari campi, e lei, Cristina Pozzi, è l'unica italiana. Ha vinto, o meglio è stata scelta appunto come Young Global Leader dal World Economic Forum di Ginevra. È l'unica italiana che negli ultimi 5 anni può vantare questo titolo, basato su migliaia di segnalazioni da 70 paesi e conferito in passato a personaggi tipo Jack Ma o Mark Zuckerberg, quindi insomma persone di cui poi solitamente si sente parlare, quindi facciamo i nostri migliori auguri. E lei dice: sono orgogliosa di questi riconoscimenti che sono frutto di un lavoro di squadra, senza i miei compagni di avventura e lavoro non li avrei mai ottenuti, quindi non dimentica nemmeno tutta la sua squadra. Che bello. E adesso abbiamo una buona notizia che arriva dal Sudafrica, perché è in calo il numero di rinoceronti e di elefanti uccisi dai bracconieri. La strage sembrava inarrestabile, invece è arrivata una buona notizia. Nel 2019, per il quinto anno consecutivo, è diminuito il numero di esemplari uccisi. Il Dipartimento d'Ambiente, Foresta e Pesca del Sudafrica ha pubblicato un rapporto nel quale annuncia che la strategia nazionale contro appunto il bracconaggio sta dando dei risultati concreti. Stati, il numero di rinoceronti uccisi nel 2019 è sceso a 594 rispetto a 769 del 2018. Il governo sudafricano ha segnalato anche un calo del bracconaggio di elefanti, con 31 uccisioni nel 2019 rispetto alle 71 del 2018. I numeri sono ancora grossi, ma certamente il calo è evidente. E al secondo posto ci spostiamo invece in Svizzera per parlare di omofobia, o meglio di democrazia, direi, perché in Svizzera c'è stato un referendum dove gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi sulla questione dell'omofobia e hanno approvato con una maggioranza di oltre il 63% la nuova legge contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. È una norma contestata dai conservatori, dai populisti, come sappiamo, anche qui in Italia, che hanno messo in guardia dal rischio di censura. Cioè, com'è possibile che io non possa scrivere frocio a Gabardini mentre è in radio? Ma glielo scrivo. Infatti lo scrivo e va bene, insomma, è divertente. Non è divertente, ma no. È buffo immaginarsi. Non è censurato, questi... ecco. Però non è censurato, esatto. Però in realtà, al di là della questione dell'omofobia, io punto il dito sulla questione democratica. La buona notizia mi sembra che è il popolo che ha deciso, ed è democraticamente un referendum dove il 63% della popolazione ha deciso che sì, non si può vietare l'ingresso, per esempio, in un bar o in una pizzeria a seconda dell'orientamento sessuale, o non si può licenziare qualcuno. Quindi sono molto contento. E al primo posto torniamo in ambito robotico: colone e fegato asportati con un robot in Italia, prima al mondo. È successo questo avvenimento, questa operazione è stata condotta all'ospedale maggiore di Bologna. Il delicato intervento è stato eseguito dall'equipe guidata dal direttore del dipartimento chirurgico Elio Iovine. La paziente era una donna di 61 anni con tumore del colon sinistro, metastasi epatiche multiple nella parte destra del fegato, resistenti a trattamenti chemioterapici. È stata impiegata una tecnica, appunto, di rimozione della parte malata e ripristino completo della circolazione epatica per evitare l'asportazione di ampie parti di tessuto epatico, compromettendo la vita della paziente. Iovine e l'equipe hanno proceduto con tecniche chirurgiche che consentono la ricrescita del fegato rimanente. Insomma, un primato che coinvolge l'Italia e che salva la vita a una persona, e ne siamo molto felici. Stavo dicendo, prima di parlare male delle macchine, occhio, perché qua, come davi tu questa notizia, è un robot che ti opera, quindi attenzione. Ma abbiamo ancora un quiz. Il robottino però almeno non si arrabbia, non ha... Ah, giusto, vero, no? Giusto. E poi, come giustamente viene osservato, non ha litigato con la moglie o col marito. Esatto. Però, come giustamente viene sempre ricordato, il robottino non è che si muove da solo, il robottino si muove perché qualcuno dietro... Qualcuno che ha studiato, un uomo o una donna. Esatto, non siamo ancora al livello in cui il robot ti fa la diagnosi, la cura, poi tutto. No, il post-operatorio, no. Ci vuole qualcuno che dietro lo manovri. Comunque sia, ben venga, insomma, se ha la mano ferma e precisa e dietro c'è uno che sa cosa deve fare. È perfetto. Un ottimo. Abbiamo ancora la possibilità di attribuire qualche biglietto, ovvero due nello specifico, a chi indovinerà il nostro quiz. Abbiamo in collegamento Mauro dalla provincia di Roma, che vuole concorrere per il quiz. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Pronto? Ah, sì, gli altri li avevo indovinati. Sì, quello del tirare il sì. Sa che sentiamo male, stia fermo perché altrimenti, anche se vince, non possiamo darle il premio, perché dobbiamo sentire chiaramente che risposta ci dà. Bene. Adesso c'è, ok, perfetto. Allora, leggo. Sono stati creati in Italia i primi cerotti smart, specificamente sviluppati per curare delle ferite molto particolari. Quali? Risposta numero 1: si tratta delle ferite dei coralli, minacciate da inquinamento e cambiamenti climatici. Risposta numero 2: si tratta delle ferite dei capelli tagliati malamente da parrucchieri inesperti. Risposta numero 3: si tratta delle ferite dei coleotteri che vengono scottati dai raggi solari in estate. Ma sicuramente la prima. Vado per i coralli, via, no? Sì. sicuramente. Bravo, a bravo. Noi, a noi ci piace anche la sua sicumera, assolutamente, e infatti ha ragione. Si tratta delle ferite dei coralli. Su diversi giornali, se non sbaglio, c'era anche l'immagine. Sì, la... bellissima. Al secolo XIX, tra l'altro, perché è un gruppo di studiosi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e dell'Università Milano Bicocca. Ci hanno lavorato loro. Si mette il cerottino sul corallo con la medicina giusta per la malattia del corallo. Magnifico, ci siamo occupati anche di coralli e quindi si porta a casa due biglietti per la mostra di Erwitt al MUDEC di Milano, che finisce a marzo, quindi l'aspettiamo a Milano entro i prossimi 50 giorni. 45. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie ad Andrea e ringraziamo anche in redazione un altro Andrea, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, in assistenza oggi c'è Alessandro Schirano, in regia Peter Bescapè. Da Laura Bettini, appuntamento a domani. E da Carlo Gabardini anche appuntamento a domani. Ho sicuramente sbagliato il calcolo di 45 perché ho pensato che febbraio invece ne ha 28, poi il bisestile ne ha 29, quindi non importa, ci sentiamo domani entro alle 8 il 29 e di mezza. Marzo, Andrea, esatto. Entro il 29 di marzo, a domani.